Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio di Collodi. Capitolo undicesimo. Mangiafoco starnutisce e perdona a Pinocchio, il quale poi difende dalla morte il suo amico Arlecchino. Il burattinaio Mangiafoco, questo era il suo nome, pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera che a uso grembiale gli copriva tutto il petto e tutte le gambe. Ma nel fondo poi non era un cattivuomo. Prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio, che si dibatteva per ogni verso urlando «Non voglio morire, non voglio morire», principiò subito a commuoversi e a impietosirsi, e dopo aver resistito un bel pezzo, alla fine non ne poté più e lasciò andare un sonorissimo starnuto. A quello starnuto Arlecchino, che fino allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente, si fece tutto allegro in viso, e chinatosi verso Pinocchio gli bisbigliò sottovoce: «Buone nuove, fratello! Il burattinaio ha starnutito, e questo è segno che si è mosso a compassione per te, e oramai sei salvo. Perché bisogna sapere che mentre tutti gli uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno, o piangono, o perlomeno fanno finta di rasciugarsi gli occhi, Mangiafoco, invece, ogni volta che si inteneriva davvero, aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro per dare a conoscere la sensibilità del suo cuore. Dopo aver starnutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero, gridò a Pinocchio: «Finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo un'uggiolina qui in fondo allo stomaco. Sento uno spasimo che quasi quasi... Ecci! Ecci!» E fece altri due starnuti. «Felicità!» disse Pinocchio. «Grazie! E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?» gli domandò Mangiafoco. «Il babbo sì, la mamma non l'ho mai conosciuta. Chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ora ti facessi gettare fra quei carboni ardenti? Povero vecchio, lo compatisco. Ecci, ecci, ecci!» E fece altri tre starnuti. «Felicità!» disse Pinocchio. «Grazie! Del resto bisogna compatire anche me, perché, come vedi, non ho più legna per finire di cuocere questo montone arrosto. E tu, dico la verità, in questo caso mi avresti fatto un gran comodo. Ma oramai mi sono impietosito e ci vuol pazienza. Invece di te metterò a bruciare sotto lo spiedo qualche burattino della mia compagnia. Olà, giandarmi!» A questo comando comparvero subito due giandarmi di legno, lunghi lunghi, secchi secchi, col cappello a lucerna in testa e con la sciabola sfoderata in mano. Allora il burattinaio disse loro con voce rantolosa: «Pigliatemi lì quell'arlecchino, legatelo per bene e poi gettatelo a bruciare sul fuoco. Io voglio che il mio montone sia arrostito bene». Figuratevi il povero arlecchino. Fu tanto il suo spavento che le gambe gli si ripiegarono e cadde bocconi per terra. Pinocchio, alla vista di quello spettacolo straziante, andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e, piangendo dirottamente e bagnandogli di lacrime tutti i peli della lunghissima barba, cominciò a dire con voce supplichevole: «Pietà, signor Mangiafoco!» «Qui non ci sono signori», replicò duramente il burattinaio. «Pietà, signor cavaliere!» «Qui non ci sono cavalieri. Pietà, signor commendatore. Qui non ci sono commendatori. Pietà, eccellenza!» A sentirsi chiamare eccellenza, il burattinaio fece subito il bocchino tondo e, diventato tutto un tratto più umano e più trattabile, disse a Pinocchio: «Ebbene, cosa vuoi da me? Vi domando grazia per il povero Arlecchino. Qui non c'è grazia che tenga. Se ho risparmiato te, bisogna che faccia mettere sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene». «In questo caso», gridò fieramente Pinocchio, rizzandosi e gettando via il suo berretto di midolla di pane, In questo caso conosco qual è il mio dovere. Avanti, signori giandarmi, legatemi e gettatemi là, fra quelle fiamme. No, non è giusta che il povero Arlecchino, il vero amico mio, debba morire per me. Queste parole, pronunziate con voce alta e con accento eroico, fecero piangere tutti i burattini che erano presenti a quella scena. Gli stessi giandarmi, sebbene fossero di legno, piangevano come due agnellini di latte. Mangiafoco, sul principio, rimase duro e immobile come un pezzo di ghiaccio, ma poi, adagio adagio, cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire. E fatti quattro o cinque starnuti, aprì affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio: «Tu sei un gran bravo ragazzo. Vieni qua da me e dammi un bacio». Pinocchio corse subito e, arrampicandosi come uno scoiattolo su per la barba del burattinaio, andò a posargli un bellissimo bacio proprio sulla punta del naso. «Dunque, la grazia è fatta?» domandò il povero Arlecchino con un fil di voce che si sentiva appena. «La grazia è fatta», rispose Mangiafoco. Poi soggiunse sospirando e tentennando il capo: «Pazienza, per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un'altra volta guai a chi toccherà». Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero tutti sul palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari come in serata di gala, cominciarono a saltare e a ballare. Era l'alba e ballavano sempre. Fine dell'undicesimo capitolo.